E allora, buonasera, buonasera a te. Alo, la mia compagna di studio. Ciao. Ciao. Sì, parli nel Ciao microfono. Silvia, si sente? Sì, ciao, ciao, si sente. Allora, siamo qua per una nuova trasmissione, uno spazio che vogliamo prendere da tipo le 18:15 fino al GR, una trasmissione in cui vogliamo sia parlare di cultura, sia parlare di lotte. Dunque, per oggi, vogliamo parlare di diverse cose. Vogliamo iniziare con una telefonata a delle compagne che sono delle giovani donne che non fanno parte di movimenti femministi e che sono studentesse, giovani studentesse che stanno in India, a Delhi, e che stanno protestando contro delle leggi all'università in cui vogliono imporre a loro delle regole molto più dure, delle regole di vita molto più dure alle donne che ai ragazzi, ai studenti. E dunque, fra pochissimi minuti iniziamo con loro perché sennò fa un po' tardi con il fuso orario. Poi vogliamo parlare di un bellissimo testo, ma questo non lo svelo adesso. E vogliamo parlare un po' di informazioni che sono arrivate su delle iniziative, ma anche manifestazioni che arrivano e il nostro focus comunque rimanerà come da solito nel martedì un focus a tutte le donne che lottano contro le violenze contro le donne, le violenze di uomini contro le donne. Siamo andate a vedere il film Io e lei, vogliamo parlarne un po', vogliamo anche parlare di musica, vogliamo forse riuscire a beccare la carovana femminista che stava a Roma inizio settembre e che adesso stanno in una manifestazione e che stasera riprendono la strada per andare a Coimbra in Portogallo perché la carovana femminista finirà il suo percorso, il suo lungo percorso dall'8 marzo in Kurdistan fino al 17 ottobre, dunque sabato prossimo, a Lisbona con una grande manifestazione, si aspettano tantissime donne. Vediamo se riusciamo a prenderle, per chi ha seguito un po' con noi questo progetto, la vita quotidiana della carovana femminista è una vita molto diciamo impegnata sia dal quotidiano di vita sia da tutte le incontri, manifestazioni, progetti che hanno incontrati e loro talvolta fanno fatica anche a essere raggiunte per raccontare questo percorso. Intanto vi lascio con un po' di musica, tempo di chiamare le studentesse indiane. Cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Hello. Yeah, hi. Yes, so we are studying in the University of Delhi, and the situation here is that the men in the university and the women in the university are treated differently. The men can go out on the streets after 10 in the night to work, while the women are supposed to be back in their hostels by 7 or 8. So there's always a curfew time for them, which they have to adhere to. Additionally, if you do not live in the university hostel, if you live in a private accommodation, then you have to pay like really high rents. And there's a lot of moral policing that goes on, a lot of character assassination that happens at the hands of the landlords, who can just come up and tell you, you know, what are you wearing? Why are you wearing this? And who are you meeting? So the situation is quite bad for girl students here. And this is why we started a campaign calling this out. And we've written a petition and we are campaigning around. Dunque la cosa che stai spiegando è che le donne e gli uomini nell'università sono trattate di modo diverso. Per esempio c'è un coprifuoco per le donne verso le 7-8, mentre gli uomini possono uscire anche fino alle 10 di sera. C'è certo la possibilità per alcune di avere degli appartamenti privati, ma che costano tantissimo e dunque non è una soluzione. Allora loro hanno iniziato a fare una campagna. Okay, I think I get. So you were can you say about the campaign that you do? Yeah, so we wrote a petition to the Delhi Commission of Women, telling them the situation, and we started a signature campaign where we received around 2,500 signatures in about a month. And we did a lot of on-ground campaigning where we went to hostels and talked to women. We had various kinds of protests. We had a night march where we were walking through the streets at night and going up to all the girls' hostels and talking to them and demonstrating right in front of it, telling them to come out and join us and telling them to share their experiences. So there was a lot of that. So okay. La cosa che hanno deciso di fare è di prima di fare una petizione in cui hanno preso qualcosa come 200 firme a settimana, e poi vanno in giro, vanno dove le donne sono ospitate, voglio dire nelle albergo della gioventù, diciamo dell'università, per chiedere a loro di uscire, di raggiungere il movimento e anche di raccontare le loro storie e le loro situazioni di vita. E hanno anche fatto una manifestazione di notte. So after this it culminated in a Johnson Y, which is a public hearing where around 20 to 25 women spoke of their experiences, and we had a jury member. We also had a representative from the Delhi Commission of Women, to whom we submitted a charter of demands and the petition with the signatures. So around 300 to 350 people showed up for the Johnson Y. It was last Saturday, and we are really encouraged by the response. Allora hanno fatto questa petizione, hanno anche sabato scorso fatto un grande presidio dove c'erano 350 persone, hanno portato la petizione e sono molto incoraggiate dalle risposte che danno le donne che partecipano a queste proteste. Do you think you will get something? Yes, actually, because we had a meeting with the Delhi Commission of Women today, and they seem quite positive on this. They've said that they need a more detailed report, after which they're willing to send a directive to all universities, telling them to have more gender equality on campus. So we're really hopeful right now, and we know that this is a longer battle and it's going to take some time, but we are quite hopeful that some result will come out of this. Allora, sì, sono abbastanza incoraggiate perché dunque sono andate alla commissione delle donne dell'università in cui hanno portato le petizioni, le firme, e infatti la risposta dell'amministrazione è stata di studiare come fare che c'è più uguaglianza per uomini e donne dentro l'università. I would like ask you how began this movement? How you meet to? It was not a group that you had at the beginning. How it came out that you decide to do this? So So actually, these kind of struggles have been going on in the university for the past 10 years now. But it has always been happening in this localized way where some college students would protest and then the administration would immediately quiet them down. So what happened over this summer was that we were some group of people who have been interested in questions of gender across the universities, who've been doing small things at a small level in their colleges and universities. So we sort of came together and we thought that, you know, it is time that we have a larger campaign around this, a more consolidated campaign where students across universities come together and say that this is not a problem of only one institution, but this is something that is happening all over the country. So this is how it all began. Allora, io ho chiesto come tutto questo è iniziato, se si conoscevano prima, se c'era già un gruppo. Lei diceva, vabbè, le proteste su questo argomento ci sono da più di 10 anni, ma quest'estate è stato come era un po' troppo e dunque si sono messo insieme per iniziare questa lotta. Sono abbastanza fiduciosi e che questa situazione non è solo stata in questa istituzione, ma anche in tutte le istituzioni di tutto il paese. Is there other protests in other university in India? There are lots of student movements going on, even within this very university. And there is one by FTII students, which is the Film and Television Institute of the country, who are not very happy with the political appointment in their college. Then there are some students also agitating about who want the university to implement the rent control movement. And so on and so forth. So, I mean, yeah. Yeah. Sì, ci sono tantissimi movimenti di studenti in tutte le università su diversi argomenti in tutto l'India. Then now if you want to add something, it's okay. If not, I will just thank you a lot for this, and I will try to continue to follow you, and that you say me what are the things that you get and how concretely you manage to have some new rules for the daily life. Yes, thank you so much. Okay. We will hopefully keep in touch. Yes, thank you to you. Bye, and thank good you. Luck, thank and you good so fight, much. And good struggle. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Violando ya los cuellos rojos, que son unos racistas, obligando a su hijo que se case con blanquita, materialista, con mente homicida. Si fueran por ellos, nos quemarían toda vida. Yo soy negrita, lista para guerrear. Ni tú ni tu legado a los míos pararán, porque mi negrura mostró su calidad, algo que su raza no quisiera eliminar. Adiós, gracias por darme este color, aunque tú misma pienses que el tuyo es mejor. Oye, rende, cuidado con el sol, no vaya a ser que te pongan negra. Yo sigo en baja, la que nunca se cansa, aunque con el pie se caiga igual y se levanta. Es para los machistas con un grado de modista que en las producciones no quiere que canten la mitad. Oye, mijo, mira, avanza, apúntame en la lista. Mejor que tú me sales que el style y la rima. No es que yo me guille de tremenda raperita, pero hablo la verdad y eso a ti te explica. Esta es la negra y la llama el Nahil. Quería algo lindo y no te lo cedí. Dijiste que no llegaría sola sin ti. ¿Qué pasó, pana? Mírame aquí paso a paso, lo que me pongan te lo canto. A tu lápiz y papel yo te lo bajo tanto. Mi lírica está sola en tu boquito retumbando. Ya te dije, tu cantar no se parece ni a los panchos. Lo que me pongan te lo canto. A tu lápiz y papel yo te lo bajo tanto. Mi lírica está sola en tu boquito retumbando. Ya te dije, tu cantar no se parece ni a los panchos. Y me retiro, yo seguiré cantando. Saludo a todos aquellos que de mí se mofan. torniamo a noi. E dunque, sei pronta per questo bellissimo testo che hai trovato? Sì, assolutamente. Allora, sì, è un testo, fra l'altro, cercando qualcosa appunto per la giornata che è stata istituita dall'ONU dell'11 ottobre, che è la giornata internazionale delle bambine, e io ho trovato questo testo da una blogger spagnola, però è chiaro che noi le giornate di questi tipi non ci interessa granché, però il manifesto Paraninas, devo dire che è una lettura molto molto bella e che dedico a tutte le bambine dai 5 anni in su, e quindi niente, è stato tradotto per la radio e per condividerla. Manifesto para niñas, che è manifesto per le bambine. Punto 1. Non sei una principessa e non lo sarai mai, a meno che tua madre o tuo padre non appartengano a una famiglia reale o che tu conosca un principe o ti sposi con lui. Tu sei una ragazza comune. Se vuoi identificarti con qualcosa, più che alle principesse, ispirati alle amazzoni, alle guerriere, alle artiste, alle sportive. Punto 2. Il principe azzurro non esiste. Appartiene alle fiabe che ti hanno raccontato per farti accettare il ruolo nel mondo che è quello di prenderti cura dell'uomo ideale, che ti alleggerirà del peso di essere una donna responsabile e autonoma, che ti salverà dalle fatiche della società e ti convertirà nella madre dei bambini che ti dovranno completare come essere umano. Punto 3. Tutti i tipi di giocattoli vanno bene. Non è vero che esistono cose da bambini e cose da bambine. Ti regaleranno piccole cucine, bambolotti, set di bellezza perché ti abitui a queste attività per quando crescerai, anche se vorrai studiare o seguire una carriera o una professione. Se vorrete più macchinine che bambole, va benissimo. Non permettete che qualcuno dica il contrario. Punto 4. Non porre limiti alla tua voglia di essere libera. La cosa migliore che ti possa capitare nella vita è scegliere al di là del tuo genere, senza condizioni, e che le tue scelte varino tanto quanto lo desideri. 5. Non accettare che ti venga detto una bambina questo non lo fa. Coloro che ti dicono questo, anche se sono i tuoi genitori, vogliono tarpare le tue ali e decidere un cammino che credono sia il tuo. Difendi le tue decisioni. Sii consapevole che chi crea categorie in base al sesso ha un cervello piccolo e una mente ignorante. 6. Arrampicati su tutti gli alberi che puoi. Questo non è da maschiacci, è sentirsi viva e saper giocare. Ricordati che per questo ti serviranno vestiti comodi. 7. Anche adesso, quando la donna sta percorrendo la sua lunga strada verso la liberazione, si incontrano discriminazioni da parte di coloro che vi sono intorno. Ricordati che lo fanno perché hanno paura e sono ignoranti. Se ci riesci, spiega loro che sbagliano. In caso contrario, continua per la tua strada. La tua vita è la migliore dimostrazione che non sanno ciò che dicono e neanche ci hanno mai pensato. 8. Il mondo è pieno di colori bellissimi. Il rosa è solo un colore in più. Che la tua vita sia un arcobaleno, non un merengue o una telenovela serale. Poi cerca giochi che siano diversi dal cambiare pannolini, dare biberon o usare o cambiare pannolini. I ragazzi hanno un pene e tu una vagina. Non ti manca nulla. L'invidia del pene è un'invenzione per farti pensare che sono migliori. Evita le pubblicità, evita le mode, evita tutto ciò che cercano di importi dalla televisione fino a quando non saprai discernere se questo potrà servirti o meno. Che una persona possegga più cose di te non vuol dire che sia più felice. Non smettere mai di chiederti perché le cose sono come sono. Non accontentarti mai della prima risposta, non rimanere mai con dubbi che puoi toglierti. La conoscenza è luminosa e apre le porte. Rifugi dalla violenza, non sai perché sia, non perché sia patrimonio degli uomini, ma perché è lo strumento degli imbecilli. Nessuno ti amerà di più perché sei molto magra o perché hai delle grandi tette, almeno nessuno che valga la pena di conoscere. Guardare cartoni animati va bene, ma anche leggere. Leggi molto, leggi fino a farti indolenzire gli occhi. Leggi racconti, romanzi, storie di pirati, alieni e balene bianche. Anche se in un primo momento non capisci ciò che stai leggendo perché sei piccola, qualcosa rimane nella tua testa e la apre. Non scartare la lettura di Cenerentola, ma ricordati che lei e tutte le altre si stancheranno di mangiare pernici nella parte che viene dopo e vissero felici e contenti. Lo stesso dicasi per la musica. Il mondo non finisce con Shakira e Selena Gomez. Se puoi imparare a suonare uno strumento, qualunque esso sia, fallo. Sposarsi e diventare mamma è uno dei destini possibili, non è obbligatorio. Il tuo futuro non è scritto nella pietra, è come l'argilla e puoi plasmarlo. Non sei mai troppo giovane per capire. Succede a volte che noi adulte non sappiamo come spiegarti le cose. Non sempre ci sono state donne presidente. Sono il prodotto di secoli di lotta e fatica. Non dimenticare quelle che ti hanno preceduto. Devi loro un sacco di libertà. Le ragazze che compaiono sulle nude, sulle copertine di riviste e in TV, lo fanno perché credono di non avere altro da mostrare. Non è un male, non c'è bisogno di giudicare e le persone guadagnano i soldi come possono. Però mi sento di suggerirti di mostrare il tuo cervello, che al contrario della tua parte posteriore diventa più solido nel corso degli anni. Questa la dedico a tutte le bambine. Manifesto para niñas. Bellissimo, bellissimo, c'è tutto, eh? Yeah. Uh-huh. Feminista. Feminist, feminist, feminist, yeah. Feminist, feminist, feminist, yo. Feminist, feminist, feminist, yeah. Feminist, feminist. À moi polygamique, je suis fier des féministes. J'en profite à coco, mais soyez réaliste. L'homme n'a pas droit à la parole, j'insiste. Même les écritures pendant que tu rappes ma piste. C'est moi qui porte casse féminin. C'est toi qui porte strigue masculaire. J'organise soirée, je sais pour les hommes soumis. Des tas des mecs et des films, moi je trie. Par le beauté, je suis déjà ébloui. Ton bonnet, bien foutu, le chambrate. Matza, un mariage, trop pétasse à la totale. Musique orientale, ambiance totale. Je traite les cœurs comme des esclaves, normal. Quoi qu'il y a, y'a vraiment rien de banal. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. À la lessive qui serre mes chaussures. À la cuisine qui vide des ordures. Quand je rentre du boulot, je mate à télé. Et puis sur la table, ma série préférée. Pendant que je me balade en BMW. Mais comme font les courses à pied chargé. Hors de question qu'ils squattent dans ma caisse. Ils ont qu'à marcher comme ça ils perdront leur graisse. Je dirige les hommes comme des pions. Pas d'explication, c'est la religion. Un peu de compréhension. Ils doivent m'obéir qu'ils le veuillent ou pas. Si tu crois pas de mes cas, il saura pourquoi. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe. J'm'achète des fringues, ils n'ont pas besoin de saper. Le plus important c'est moi, j'aime être stylé. Mordre pour que toujours les mêmes fringues. T'es nourri, logé, mais qu'est-ce que tu te plains. Arrête de faire tes manières. Sinon je vois chez ta mère. Ton rôle est de m'obéir, mets-toi dans la conscience. Si tu continues, je te mets le balai où je le pense. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Féministe, féministe, féministe, yeah. Féministe, féministe, féministe, yo. Yeah. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Yo. E un saluto all'ascoltatore che ci ha chiamato per dire che lo vuole leggere alla sua bambina e alla sua figlia. Sì, sì, sì, genitori di tutti i tipi, leggete questo manifesto che pubblicheremo sul nostro blog mfl.noblogs.org in modo che voi potesse leggerlo a tutte. Mentre noi continuiamo, mandiamo un audio di una manifestazione che contro le violenze che si è fatta in Cile l'anno scorso. Allora sì, questa era una manifestazione in Cile l'anno scorso, l'abbiamo scelto perché vogliamo introdurre un'altra manifestazione che si svolgerà a Madrid. Vuoi dire in due parole sì. Le cose che escono di questo piccolo audio, perché no, io lo spagnolo non lo si capisco. Sente? Sì, sì, sì. Allora sì, questa è l'idea di questa marcia che ci sarà il 7 novembre a Madrid, che è proprio la capitale della Spagna. Nasce da un gruppo che è nasce in rete, appunto da delle compagne attiviste che, lavorando, facendosi conoscere tramite internet, si stanno mobilizzando per questo grande corteo che ci sarà nella capitale spagnola. Sembra che sia partito tutto dalla coordinatora femminista di Valencia, in risposta proprio alla dilagante violenza degli uomini sulle donne, appunto la violenza machista. E niente, la riunione c'è stata, dunque c'è stata la riunione per il corteo, per la marcia contro la violenza machista. Ci fu il 28 lo scorso 28 febbraio il 2015, convocato appunto dalla coordinatora femminista di Valencia, e dove hanno partecipato dei rappresentanti della comunità valenciana, di Andalusia e di Madrid, e in particolare tutti quelli che hanno aderito sono Amplia Comp, l'Assemblea Femminista de Madrid, l'Associación de Mujeres de San Fernando de Henares, Pacto Feminista, Ateneo, Comisión Feminismo 25 novembre, Feminismo Sol, Cómputo, Coordinatora Mujeres Participación e Igualdad, Custodia en Positivo, Federación de Mujeres Progresistas, Foro de Madrid contra la Violencia de Género y el Consejo de Mujeres Madrid. Questi sono tutti quelli che hanno partecipato. Forum de Politica Femminista di Andalusia, Forum de Politica Femminista Statale, Fondazione eccetera eccetera. E niente, quindi si sta mobilizzando per il 7 novembre questa grande marcia, e poi ne parleremo anche con una compagna spagnola. Sì, la settimana prossima proviamo a chiamare una compagna che partecipa alla costruzione di questa manifestazione, che si terrà, lo puoi ridire? Il 7 novembre. Il 7 novembre, dunque. 7 novembre a Madrid. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacaste la careta y con ella que chanchar. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacaste la careta y con ella militar. Aunque no nos quieran, somos requinteras. E fa sempre dunque questa Las Conchudas, la cumbia anarchica e femminista. Allora, rimaniamo un po' in questa parte del mondo con un'informazione che abbiamo trovato, e alla convocazione a un convegno, no, è un è un scusate perché io c'è dal spagnolo, cioè mi sono perso un po'. Ah, ecco, un incontro nazionale femminista il prossimo weekend di ottobre, dunque 16, 17, 18 a Toluca lo stato di Messico. È un appello abbastanza chiaro, un appello dal basso, in cui le compagne che appellano a convocano questo incontro, si concentrano ovviamente, e sì ovviamente, perché quando si tratta di femminista si tratta sempre di contrattare la violenza sulle sue donne, dunque sono delle donne femministe che si sono riunite in Femigrante, che vogliono trattare del tema dell'allerta alla violenza di genere nello stato di Messico, e vogliono anche dire che non vogliono essere attaccati ai partiti politici, che comunque non trovo altre come contrattacco che mettere in piedi dei meccanismi di protezione, e loro invece dicono che vogliono un'azione femminista di riconoscimento, la creazione e la costruzione collettiva in cui le esperienze di vita delle donne che partecipano sono messo in circuito, e dunque non vogliono essere dentro i partiti, non sono istituzionali e sono laiche. E dunque questa proposta di donne autonome di organizzazione della società civile stanno costruendo questo agenda femminista per un incontro nazionale che si terrà il 16, 17 e il 18 agosto. Let's go, Juice. صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلبس لبس كل هالأرض بتكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بتضل عربي Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Seguiste los corrilos, calladitas no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos que la importancia. Nuestro lugar defenderemos con elegancia, más conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos bikini, chiquini, riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos bikini, chiquini, riqui, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi vientre, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Chamanas, indias, hermanas, luchando por un más mañana, porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes, que 2014, va que lleve, va que goce, Emilio Record está completo. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. Allora, il pezzo che vi mando adesso è un pezzo di Anati Giù, non è completamente staccato dal pezzo precedente di Shadia Mansour, perché Lolodou e Shadia Mansour, questa cantante rap della Palestina, canta ogni tanto con Anati Giù, si sono incontrate per fare un pezzo famoso su questa onda Somos Sur, e l'evento, cioè, che Anati Giù viene a Roma, e dunque viene all'Acrobax il 23 ottobre. E questo pezzo ci piace perché è a proprio nella tematica, si chiama Antipatriarca. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Anna Tijoux. Anna Tijoux à l'Acrobax il 23 ottobre. Anna Tijoux è nata in Francia, è figlia di genitori nel nord della Francia, c'è cioè anche un punto comune con lei, ma è tutto qua. È dunque figlia di genitori cileni esilati dopo il colpo di Stato l'11 settembre del 73, e poi lei va a vivere a Parigi e inizia a fare hip hop. Poi all'inizio come ballatrice, poi torna in Cile, e dove adesso vive. Poi entra nel rap del Cile con un gruppo che si chiama Macul a Santiago, e poi fa il suo proprio gruppo a lei, Los Gemelos. Nel 97 diventa più conosciuto con il gruppo Los Tetas, e questo dunque è il suo percorso. Un'altra cantante di cui volevamo parlare, anche lei non è proprio c'è un seguito nella nostra scelta, è Amel Mercous. Amel Mercous, cantante palestinese anche lei, che è comunque molto impegnata per la pace, e il pezzo che volevo andare, dove è perso, dunque dove lo trovo, ascoltate, scusate un attimo, come più sono preparata e meno sono organizzata, questo è un po' il problema. E vabbè, una cover che riconoscerete. Dovrebbe essere là. κατσιζηβόρο. Amel Mourkous è una cantante palestinese che vive e fa performance in Israel. Il suo stile postmoderne music, lei ha come compito nella sua vita, si è dato come compito di sviluppare la musica tradizionale araba e la pop music e di fare conoscere tutta questa musica in Israele. Ascoltiamo un altro pezzo. Amal Mourkous, e noi siamo andate al cinema questo weekend, siamo andate a vedere Io e Lei. No, questo è troppo morbido. Ma deve essere morbido, questo è il punto, no? Signora, le faccio provare questo Physiology. E Si mette nella posizione esatta in cui dorme di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito, a cucchiaino. No, grazie, veramente. Senti, decidi tu, Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stradisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi l'uomo che ti porta il caffè a letto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita la moglie di Sergio, la madre di Bernardo. Basta. Goditi un pochino sta libertà che c'hai. Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Quale spazio? Lo sai, non ci vedo, dai. Non vedi, non ci senti. Mi pare da sta coanna dei miracoli. I need someone to take some joy. Ho incontrato una persona. Un uomo o una donna? Posso sapere da quanto tempo mi racconti male? Non puoi stare così. Perché come sto? Come una che le manca un pezzo. Non ti vergogni, ancora. Io ho bisogno di capire. Tu sei l'unica persona importante per me. Io con te ho imparato un sacco di cose. Dai, diamo una puntata e siamo indietro, Vedi, rilascio sta, questo è il condizionatore. I need someone to take some joy in something I do. E questo era il thriller della Io e Lei di Maria Sole Tonazzi, che siamo andate a vedere questo weekend. Allora, qualche spunti. Come un film di grande pubblico, di grande schermo, che ne pensate? Si può vedere? Ma secondo me sì, si può vedere, cioè, per chiarire anche perché se ne parla, insomma, è una storia tra due donne. E è una storia tra due donne, una produzione italiana, attrici famose, anche di cassetta, anche insomma fiction televisive, ma non solo, sono anche attrici che hanno fatto delle cose serie. E io l'ho trovato carino, divertente, non morboso e nemmeno stupido. Ma un film che ci rappresenta noi? Sì, per alcune cose sì, magari per altre forse no, nel senso, vabbè, una storia dopo 5 anni così, sembrava un po', da un certo punto di vista, la famiglia del Mulino Bianco in versione lesbica, però carino comunque, con delle chicche e perché no, la possibilità pure di vedere una coppia che io sinceramente ancora non ho visto, che funzioni così, bene, perché poi pulite nelle loro dinamiche, quindi carino, sì. La difficoltà di amare una donna c'è dentro questo film. Sì, sicuramente c'è, però credo anche che sia una difficoltà che in questo mondo patriarcale, eterosessista, tradizionalista, eccetera, è una difficoltà che tante vivono. C'è chi lo vive a 16 anni, chi lo vive a 50, ma tante la vivono questa difficoltà. Ma come donne che si amano sono credibili? Sì, abbastanza. Ma non è una domanda che mi sono posta, non ho trovato il film non credibile. Il film no, io per esempio, cioè, non lo so, non trovavo che c'era tanto amore tra loro. Non lo so, un bacio finale per esempio è un po'... cioè, non lo so, superficiale, non lo... Non l'ho veramente sentita nelle mie trippe come una cosa... No, non è una cosa su cui io sinceramente mi sono soffermata. Ho sentito un'altra critica a questo film, così, da un'altra donna che ho incontrato al cinema. E poi l'ho sentita ripetere più volte e quindi ve la pongo a voi. Cioè, questa critica è sì, ma insomma siamo sempre in un mondo di ricche, patinato e tranquillo, dove non c'è il problema ad arrivare alla fine del mese sostanzialmente, il che è vero, ma sinceramente mi pare che riguardi il cinema in generale. Cioè, il cinema in generale rappresenta una classe sociale che non è quella della maggior parte delle persone, a meno che non parli proprio del problema sociale, no? In questo caso sì, sono due benestanti, questo è il film. Si vede anche, come dire, la storia però delle due, una è un'ex proletaria, l'altra no. certo, insomma, non è una lettura di classe, ecco, questo non lo è, ma insomma, come dire, è una critica che si può fare a molti film. È come un film lesbico dentro la cultura del cinema lesbico, come lo vedete? Nel senso che io, per quando sono entrata, mi sono detto: ah, finalmente non sono delle adolescenti, sono delle donne mature, si vede una coppia che vive bene anche questa, con questa difficoltà di una di essere un po' così, no, dentro questa difficoltà di essere innamorata di un'altra donna, ma nessuna muoia alla fine, c'è una fine anche bene, cioè, che comunque va anche, secondo me, detto, perché non è sempre così nel cinema lesbico. Sì, sicuramente non è, come dire, il film delle produzioni cinematografiche mainstream. Per tanti anni hanno prodotto solo lesbiche o cattive, naziste, o morte suicide, o morte perché ammazzate da qualcun altro, eccetera eccetera, e su questo, per esempio, i film di cinema lesbica hanno lavorato tanto, portandoci invece a vedere le lesbiche che parlano di se stesse. In questo caso, appunto, non è una produzione che viene da ambiti di movimento, è una produzione mainstream, e però appunto non richiama quel vecchio immaginario della lesbica brutta, cattiva e disperata. Due parole sulla la forma del film, la forma cinematografica, cioè le immagini, la musica. Carino, cioè, non eccezionale, la fotografia carina, ci sono delle scene molto belle, per esempio la fotografia del mare quando loro due passeggiano, molto carina. Però una commediola, insomma. Sì, una commedia che sta appunto al passo con la media della commedia italiana, sostanzialmente, di quello che anche come realizzazione cinematografica. Io poi non mi voglio spendere in commenti tecnici, perché non sono, cioè, io vado molto al cinema, ma proprio non sono un'esperta, ecco. La regista, che appunto è Maria Salve Sognazzi, porto un cognome molto impegnativo nel cinema italiano, e non lo racconterò perché sennò magari rovino la sorpresa, ma c'è un cameo che è un richiamo alla produzione cinematografica di suo padre, un film che in Italia non sul lesbismo ma sull'omosessualità ha fatto storia, che è Il Vizietto, e lei lo richiama con una cosa piuttosto divertente che però non racconterei. Stereotipi? Io non le ho trovate stereotipate loro. No, solo il gatto. Sì, hai ragione, il gatto è un po' uno stereotipo. Rischiavamo la famiglia con figli, Sì. No, infatti su questo siamo bene. Grazie. I'm so tired. E per concludere questo spazio focus di oggi, finiamo con una poesia lesbica fiorentina, l'occasione di presentare Hélène Colucci, che ha scritto un meraviglioso tantissime meravigliose poesie. Ci ritorneremo solo per dare un assaggio in finale, questa una chiusura di questa trasmissione. Noi la inviteremo a commentare e a parlare del suo lavoro. Un apostrofo. L'apostrofo distingue il maschile dal femminile. Il maschile non ha l'apostrofo. Il femminile ha quel qualcosa in più. L'apostrofo è quel qualcosa in più che rende le femmine desiderabili. Io desidero quell'apostrofo. Io desidero l'apostrofo delle femmine. E su questa cosa vi diciamo alla settimana prossima. Rimanete con noi, fra pochissimi minuti il GR serale, lo spazio comunicazione, poi ci ritroveremo per l'agenda del dopo GR. Her voice I hear loud and clear, only now in my head. When did the time become something that I feel? And now as I disappear, someone else becomes real, as real as the smallest star born into a child. It's known at the time is both simple and wild. I wish you were here with me, but you're too far away, standing beside me now with nothing to say. I wish that somehow you knew